9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci qua, cari ascoltatori, a questo martedì 13 di luglio, in cui ci occuperemo di una delle cose che, a mio modestissimo giudizio, quindi perdonerete se oggi vado su un cavallo di battaglia, per così dire, è uno dei punti fondamentali di cui non ci si occupa abbastanza nel nostro paese, cioè ne si occupa troppo poco, e da cui deriva un aggravio aggiuntivo molto rilevante, pressoché decisivo, che determina il nostro basso tasso di crescita da molti anni, comparato prima della crisi con tutti i paesi avanzati, sia con la media dell'euroarea che con gli Stati Uniti, e che con ogni probabilità, dicono tutti i centri previsionali internazionali, anche all'uscita di questa crisi, di fronte alla ripresa del commercio mondiale, determinerà con ogni probabilità un minor tasso di crescita del nostro paese. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di quello che per noi liberisti, mercatisti, come vengono chiamati con disprezzo in quest'ultima stagione da chi è convinto che solo la ripresa dello Stato, a maggior ragione di fronte alla crisi, possa dare la risposta buona per orientare i cicli economici, è invece un elemento fondamentale, cioè la concorrenza. E allora, ieri è stato presentato a Milano la nuova edizione annuale dell'indice delle liberalizzazioni 2010, è un indice che sulla scorta di grandi rapporti internazionali che vengono curati dal Wall Street Journal, dalla Heritage Foundation, eccetera, eccetera, da alcuni anni a questa parte assume metodologie comparabili con quelle dei grandi rapporti internazionali, ma fatti sul nostro paese. E di anno in anno quindi misura su alcuni settori fondamentali della vita economica del nostro paese rispetto a un paese che viene identificato come quello delle migliori pratiche in Europa, il maggior grado o minor grado rispetto all'ultimo anno di apertura della concorrenza nel nostro paese. Questo indice delle liberalizzazioni è curato dall'Istituto Bruno Leoni, presso il cui sito potete fare richiesta di acquisto del volume. Io veramente lo consiglio a tutti, perché è una riflessione molto approfondita, perché i settori sono 15, quindi trovate prima una introduzione sulla metodologia comparata che spiega come e perché vengono assunti questi 15 settori. Quali sono? Alcuni sono quelli, i settori infrastrutturali rispetto ai quali la concorrenza è per il mercato, si dice, no? Perché ci sono più o meno monopoli naturali e quindi la concorrenza si fa per il mercato. Quali sono? Sono l'elettricità, il gas, i servizi idrici, le telecomunicazioni, il trasporto ferroviario, il trasporto pubblico locale, le infrastrutture autostradali. Poi ci sono settori che non sono infrastrutturati, cioè la televisione, i servizi postali, il trasporto aereo, il mercato finanziario, gli ordini professionali, e poi ci sono dei settori in cui si misura il tasso della concorrenza in senso lato, per così dire, cioè alla ricerca del fatto se siano state abbassate o alzate barriere ai nuovi ingressi, e questi sono altri tre settori: il mercato del lavoro, il fisco, la pubblica amministrazione. Ecco, rispetto a ciascuno di questi settori c'è un paese di riferimento che quasi sempre il Regno Unito, perché il Regno Unito per l'elettricità, il Regno Unito per il gas naturale, per i servizi idrici, per le telecomunicazioni, per il trasporto ferroviario, per il trasporto aereo invece è l'Irlanda, per il trasporto pubblico locale di nuovo il Regno Unito, per le infrastrutture autostradali è la Spagna in Europa, per i servizi postali è la Svezia, per la televisione è di nuovo la Spagna, per i servizi finanziari la Svizzera. Poi, se torniamo alle professioni intellettuali, di nuovo il Regno Unito, come per il mercato del lavoro, come per il fisco e come per la pubblica amministrazione. Ecco, la sintesi è che, facendo la graduatoria comparata, quest'anno siamo fermi sotto la soglia del minimo auspicabile del 50, siamo a 49, e vedendo gli ultimi 4 anni l'Istituto Bruno Leoni con questa metodologia ci indica che più o meno siamo sempre fermi là. È un pochino la riprova del fatto che non siamo in una stagione positiva per le liberalizzazioni e le aperture alla concorrenza, non lo siamo per tante ragioni storiche accumulate. Ci sono dei settori in cui negli anni vedremo come e perché la posizione comunque è sopra una soglia accettabile, perché nel mercato elettrico, per esempio, nei mercati finanziari, nel mercato del lavoro, per ragioni varie e diverse, abbiamo fatto passi avanti negli anni, anche rilevanti, ma in ogni caso non c'è una grande attenzione sull'apertura alla concorrenza. Bene, ora parliamo un secondo con uno degli autori del rapporto, cioè Carlo Stagnaro del Bruno Leoni, che ci ascolta. Buongiorno. Buongiorno, perché non ho capito se era in aeroporto oppure se... No, è possibile che rimane collegati, sì. Nella fotografia iniziale, come siamo messi rispetto ai 4 anni precedenti? Beh, ci troviamo sostanzialmente, almeno a livello aggregato, a livello complessivo, nella stessa posizione. Noi abbiamo misurato una variazione nel grado di apertura del paese nel suo complesso, che è cambiata davvero nei minimi termini, dal 48% del 2007 al 49% del 2010. Dato il modo in cui noi misuriamo questo indice, che è una combinazione di analisi di indicatori qualitativi riguardo agli aspetti normativi, regolatori, eccetera, e di indicatori quantitativi sulla performance del mercato, il funzionamento del mercato e così via, è un punto percentuale è una differenza che noi sostanzialmente non riteniamo significativa. Quindi quello che possiamo dire è che l'Italia nel suo complesso è restata tanto aperta o tanto poco aperta, secondo dei punti di vista, quanto lo era nel 2007, nel 2008 e nel 2009, vale a dire da quando noi abbiamo iniziato a rilevare questo indice. Dentro il 49% e dentro questa assenza dei cambiamenti, in realtà dei cambiamenti ci sono, nel senso che vi sono dei settori che migliorano anche in maniera significativa anno dopo anno e a maggior ragione nel medio termine, cioè ripeto dal 2007 al 2010, altri settori che seguono un percorso inverso e altri ancora che restano sostanzialmente stabili in quanto non vengono interessati né da riforme in senso lato né da interventi o misure che possono avere l'effetto o di accrescere la competizione o di ridurla. Se posso prendere solo 2 minuti per commentare i casi che a noi sono sembrati più significativi, soprattutto se messi nella prospettiva ormai di 4 edizioni dell'indice delle liberalizzazioni, che quindi non ci consente di disegnare una vera e propria tendenza, perché 4 osservazioni sono un numero ristretto, ma che comunque ci consente di individuare dei cambiamenti, dei trend per quanto moderati, per quanto da prendere con le pinze, allora qualcosa si può cominciare a dire. Anzitutto si può cominciare a dire qualcosa sul mercato elettrico che è fin dall'inizio del nostro lavoro è risultato il mercato più liberalizzato nel paese. Che ha un indice di 71 quest'anno. Che ha un indice quest'anno del 71%, che vuol dire che fatto 100 il livello di liberalizzazione in Gran Bretagna in questo caso, noi valutiamo il contesto italiano a un livello attorno al 70-71%, cioè un grado di liberalizzazione molto alto. Il dato più significativo qui non è solo il fatto che ci collochiamo su un ottimo livello di apertura, ma soprattutto quello che vediamo, un'apertura che anno dopo anno migliora, magari non in misura estremamente significativa, migliora di 2 punti tra il 2007 e il 2008, migliora di 4 tra il 2008 e il 2009, migliora ancora di 2. Aspetti, immediato SMS, ma cosa sta dicendo, visto che le bollette qua non si vedono gli effetti della concorrenza? Allora, ovviamente questa è una domanda, come si suol dire, una domanda complessa. Gli effetti della concorrenza si vedono anzitutto nella possibilità che ciascun consumatore oggi ha di cambiare fornitore e si vedono nel fatto che le offerte presentate dai diversi fornitori in alcuni casi, in alcuni momenti, divergono anche in maniera significativa. Dopodiché è chiaro che la spesa delle famiglie per l'energia elettrica in Italia è una spesa relativamente ridotta e che buona parte di questa spesa, circa il 40%, è sottratta alla concorrenza, perché si tratta di componenti fiscali o parafiscali, quindi la concorrenza vera e propria si esercita sul restante 60%, cioè su una spesa media attorno ai 600 euro all'anno per famiglia. Detto questo, nell'arco degli ultimi 10 anni, cioè da quando è iniziata la liberalizzazione del settore elettrico, anche sulle bollette i risultati positivi si sono visti. Si sono visti in negativo, se volete, cioè nel fatto che il livello delle bollette, mi riferisco soprattutto al periodo che va dal 2000 al 2008, quando il prezzo del petrolio e quindi dei combustibili che stanno all'origine della generazione elettrica, in particolare il gas, sono cresciuti in maniera vigorosa, il livello delle bollette italiane non è cresciuto altrettanto velocemente, anzi è restato sostanzialmente stabile al netto dell'inflazione. È evidente che questo non aumento, che ci sarebbe sicuramente stato, tra virgolette, nel mondo precedente, non si è verificato anche grazie alle dinamiche virtuose determinate dalla concorrenza. Dopodiché è vera anche un'altra cosa: quando noi parliamo di liberalizzazione parliamo di riforme che interessano soprattutto il contesto in cui funziona il mercato in un dato settore e che quindi non hanno effetti immediati, anche perché implicano decisioni di fare investimenti, di mobilitare risorse e così via. Gli effetti si vedono tipicamente nel medio termine. Oggi noi siamo nel medio termine dell'inizio del percorso di liberalizzazione del mercato elettrico in Italia e a me sembra che, per quanto vi siano ancora numerose criticità, il giudizio è insomma che siamo in quel settore meno peggio, diciamo così. Senta, io poi ho una batteria di altre domande che già le segnalo adesso perché dobbiamo assolutamente dare una risposta. Per esempio, molti dicono, siccome io ho letto i paesi benchmark settore per settore, ma come, non c'è Germania e Francia, i paesi veramente leader da nessun punto di vista come riferimento? È ovvio che è chiaro a me e a lei perché, però dobbiamo spiegarlo ai nostri ascoltatori. Poi alcuni, che mi pare di capire hanno già visto l'indice, quindi questo mi sorprende, dicono ma mi spiegate com'è che il secondo settore che ho appena visto sul sito del Bono Leoni dice che il secondo segmento per apertura al mercato è la televisione, 2 punti servi di Berlusconi. Questo è il messaggio che le leggo e le giro perché mi sembra abbastanza significativo dare una risposta anche a questo. Però nel frattempo io mi sposto su un altro interlocutore, mentre lei continua a essere collegato e poi torneremo da Stagnaro, perché siamo collegati con Nicola Rossi, senatore del PD, che è uno dei parlamentari da sempre più attento a queste tematiche. Buongiorno senatore, grazie. Buongiorno a voi. Allora, se dovesse dare un'opinione sul perché complessivamente destra, sinistra, anche, però insomma adesso parliamo della maggioranza di questo governo che ha la responsabilità pro tempore del paese, non sembrano molto attivi su queste tematiche. Lei dice che una curva generale dopo la crisi, lo Stato che torna forte eccetera, o ci sono ragioni italiane? Parliamo anche poi della difficoltà di aggredire coloro che hanno le rendite di posizione, possono essere grandi imprese nei servizi di rete, come possono essere negli ordini professionali centinaia e centinaia di migliaia di loro iscritti e rappresentanti. Qual è secondo lei il fattore? Tutto questo sommato? Credo che ci siano ragioni anche schiettamente italiane, nel senso che alla cultura della nostro centrodestra, del nostro centrosinistra, le liberalizzazioni erano e sono abbastanza strane nella sostanza. Ora, al di là del fatto che alcune parti politiche, segnatamente il centrosinistra, abbiano fatto più di altre in passato, però la vera verità è che le si sbandiera e le si utilizza molto come un'arma politica, molto poco diciamo come un valore da difendere, perché si difende il cittadino consumatore. Quindi credo purtroppo che il problema diciamo sia abbastanza serio, e lo si vede secondo me anche da un'altra questione che è emersa nell'intervento di uno degli ascoltatori, il quale nota come effettivamente in alcuni casi poi le bollette anche nei settori che hanno avuto le maggiori esperienze di liberalizzazione sono rimaste quelle che erano, forse sono peggiorate. Il motivo è semplice, perché se la cultura delle liberalizzazioni fosse stata piena, compiuta, allora tutte le parti politiche avrebbero posto grande attenzione al fatto che mercati liberalizzati, soprattutto in alcuni settori, hanno bisogno di autorità indipendenti e in grado di fare il loro lavoro al meglio. E forse anche per questo il settore elettrico, che è quello dove universalmente è riconosciuto che l'autorità è la più indipendente, anzi po' grandi polemiche con la politica che non l'ha più integrata, la voleva mandare via eccetera eccetera, forse anche per questo dice lei che è il settore più liberalizzato. Certo, perché come dire, lo sforzo sovrumano che la politica ha compiuto negli ultimi 7-8 anni, purtroppo, è stato quello di realizzare, se mi si permette la brutta parola, alle autorità, e cioè di ricondurle in una logica strettamente amministrativa, più prossima al potere politico, e quindi, come dire, di tarparne le ali. Cioè, do io il giudizio, perché lei deve essere più diplomatico, questa insomma cerchia di magistrati amministrativi, virgola, che noi giornalisti attribuiamo la vicinanza di Gianni Letta, per essere chiari, perché di lì viene la fonte delle loro che vengono riconfermati e che girano dall'antitrust alla Consob da anni, eccetera, insomma una grande spinta non l'ha data. Serio, perché la logica che ispira non è la logica del mercato, non è la loro formazione. La logica che ispira è quella appunto di uno Stato presente sempre e comunque, di un controllo di carattere amministrativo raramente sostanziale, quindi, come dire, io lì vedo il problema molto serio, devo dirlo con franchezza. Però, senatore, le faccio osservare che quando il presidente dell'antitrust, di fronte alla crisi, ha iniziato a dire, appellandosi all'unico articolo della legge istitutiva dell'autorità che consente al governo di sospendere la concorrenza per esigenze superiori, e lo stesso presidente dell'antitrust ha detto: ora che c'è la crisi bisogna difendere l'occupazione, la concorrenza venga sospesa, che a me sembra un po', insomma, un'antinomia, visto che in teoria il suo interesse è il contrario. Io temo, non so cosa, come la pensa lei, che in realtà gli elettori a maggioranza a destra e a sinistra, insomma, di fronte ai tagli Telecom di cui leggono oggi, dicono: ma insomma, viene prima la difesa del posto e degli occupati o viene prima la concorrenza, di cui non si sa se vedremo gli effetti vista la storia di Telecom? Lei che dice? Vedo, dovrebbe essere proprio la classe politica a segnalare ai consumatori che la difesa primaria è quella degli occupabili, non necessariamente degli occupati, ma degli occupabili. E questo è il punto, diciamo, e questo invece la classe politica non lo fa assolutamente. Insomma, in Senato non più tardi di 3 giorni fa, 4 giorni fa si è varata in un'Europa che contrae l'impiego pubblico, il Senato italiano è riuscito a varare la stabilizzazione di 25.000 precari in una regione come la Sicilia, dove il numero di funzionari pubblici è già multiplo, pari a un multiplo di quello di altre regioni. Credo che il limite vero sia nella maniera con cui la politica interpreta, diciamo, tutte queste cose, purtroppo. Possibilità che queste tematiche tornino a essere in cima all'agenda della politica, che da cosa dipendono? Dal fatto che bisogna cambiare la destra, la sinistra, bisogna rassegnarsi? Mi lasci pure qua, scusa un attimo solo, mi lasci pure qua. No, la possibilità secondo me è molto semplice, saranno i fatti a imporcelo. Con un tasso di crescita, diciamo, dell'1% non si va da nessuna parte, anzi, per essere precisi, ci si impoverisce con discreta regolarità ogni anno, e saranno i fatti purtroppo a imporci anche, diciamo, cose che fatte in una maniera, come posso dire, affrettata o sull'emergenza potranno anche risultare sgradevoli. Ma è questo quello che io mi aspetto. Va bene, io mi auguro che sia davvero così, cioè che dei fatti anche traumatici ci impongano di prendere questa strada come la strada maestra, ma soprattutto obbligata. Mi rendo conto però che quando i nostri ascoltatori dicono i grandi paesi dell'Europa non sono così concorrenziali all'anglosassone, come dite voi, Giannino e i suoi amici, noi tocchiamo un altro punto scoperto del nostro paese, che ha l'idea in buona sostanza che la regolamentazione venga prima della deregolamentazione. E questo, secondo me, è un punto di cui la politica, ci vogliono politici innovatori, perché si tratta di rompere anche dei luoghi comuni della comunicazione politica e del consenso politico del nostro paese. Allora lasciamo il senatore Rossi e ringraziamo per il tempo che ci ha dato, perché come avete sentito stava salendo e scendendo, e quindi è stato un tranche de vie, per così dire. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando dell'indice delle liberalizzazioni 2010 curato dall'Istituto Bruno Leoni. Sul sito dell'Istituto Bruno Leoni tutti i particolari per averne una copia. 15 settori dell'economia italiana rispetto ai quali viene spiegato come e perché si assume un paese considerato quello delle migliori pratiche per apertura alla concorrenza e quindi effetto di maggior stimolo e crescita in tutta Europa. sui quali da anni si misura l'avanzamento o l'arretramento della concorrenza nel nostro paese. Abbiamo visto il mercato elettrico 71% di apertura come il segmento in cui questa apertura più elevato, poi viene la televisione con 65% e Stagnaro ci deve spiegare perché, i mercati finanziari con 63%, il trasporto aereo con 60%, dove c'è un passo indietro misurato quest'anno secco per effetto delle norme antitrust grazie alle quali si è tutelata all'Italia nel salvataggio per CAI, il mercato del lavoro con 60%, il gas naturale con 55%, il fisco con 54%, dove quest'anno miglioriamo perché il paese di riferimento, la Gran Bretagna, di fronte alla botta presa di debito pubblico è molto peggiorata lei, e quindi sembra che noi andiamo meglio perché a volte è il paese di riferimento che si abbassa come apertura, e quindi con le nostre tasse, che pure sono pesantissime, siamo sopra il 50% per questo. Ordini, poi ci sono i segmenti sotto il 50%, cioè gli ordini professionali al 47%, pubblica amministrazione in generale al 46%, trasporto pubblico locale al 43%, servizi postali al 43%, telecomunicazioni 41%, trasporto ferroviario 41%, infrastrutture autostradali addirittura 29%, qui il paese di riferimento è la Spagna, servizi idrici 17%, dove noi peggioriamo molto quest'anno, ci dice Bruno Leoni, perché il paese di riferimento, la Gran Bretagna, al contrario ha ancora più aperto le regole del suo mercato, per cui l'indice dell'Italia è il 49% complessivamente. Allora, ci ha raggiunto il professor Carlo Scarpa, economista che insegna economia politica all'Università di Brescia. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Allora, uno dei punti che toccavamo alla fine del collegamento col senatore Rossi era questa attitudine italiana a considerare in realtà la regolamentazione, anche quando si tratta di aprire in teoria al mercato della concorrenza, si adotta un blocco di nuove regole che rispetto alle precedenti sono ancora più pesanti e pervasive, e quindi spesso gli effetti di questa re-regulation fanno anche passare in seconda battuta gli eventuali possibili effetti di un'apertura alla concorrenza, perché irregolare ha spesso effetti che comunque prevalgono negativamente su anche gli obiettivi che spesso vengono posti dal regolatore. Perché questa cultura fa parte dell'evoluzione del nostro ordinamento, della nostra cultura giuridica, o è un difetto politico? La politica e il sistema giuridico, è difficile tracciare un confine netto. È evidente che abbiamo paura del mercato, non siamo stati abituati a questo. E ogni volta che si parla di liberalizzazione ci chiediamo: ma chi controlla? E un po' questa ossessione del controllo fa sì che rincorriamo delle regole sempre più complesse, sempre più pesanti e qualche volta prive di senso. Posso farle una domanda? Nella sua esperienza, voglio dire oramai di parecchi anni, qual è la responsabilità precisa dell'Accademia Italiana? Per esempio all'introduzione dell'indice della liberalizzazione quest'anno al Bruno Leoni hanno apposto un saggio di Sam Peltzman, che insegna alla Chicago Booth School of Business di Chicago, appunto, e che dice, dati alla mano, guardate che per tutti coloro che pensano che la regolazione dello Stato assolva funzioni fondamentali, io vi dimostro, dati alla mano, che da quando negli Stati Uniti si sono adottate regole per tutelare gli automobilisti e tutti coloro che vanno per le strade dagli incidenti automobilistici, prescrivendo tutta una serie di obblighi assicurativi, tecnologici per le macchine, eccetera eccetera, ebbene la mortalità è diminuita prima di questo blocco di regole di più di quanto non sia diminuita dopo la regolazione dello Stato. E sono cose che ovviamente in Italia, a leggerle, i più delle persone gli fanno vedere i brividi dicendo: ma cosa stanno dicendo questi? Domanda: quanto l'Accademia, cioè gli economisti italiani, continuano a essere a stragrande maggioranza a loro volta convinti che più regolazione è meglio che deregolamentazione? Rispetto alle questioni di Peltzman, rilevo al volo che ci sono in realtà alcuni trasportisti che hanno proposto e hanno anche implementato in alcuni paesi, se non ricordo male in Danimarca, situazioni nelle quali sono stati aboliti i semafori. di modo che chi arriva a un incrocio sa che non è tutelato da nessun tipo di semaforo, quindi sta molto più attento, e questo ha fatto diminuire gli incidenti. Chiudo la parentesi. Le responsabilità dell'Accademia Italiana, ma sono enormi. Quando io cominciai a occuparmi di queste cose, quindi del funzionamento dei mercati, concorrenza, regolazione, liberalizzazioni, eccetera, e purtroppo andiamo indietro di un po' di anni, ma non di tantissimi, andiamo indietro a metà anni 80, quando impostai la mia tesi di dottorato, in Italia non c'era praticamente nessuno che lavorava su queste cose. E infatti cominciai a lavorare su queste cose non seguendo un maestro che mi disse vieni a fare le mie cose, ma seguendo il consiglio di una persona saggia che mi disse guardi Scarpa, su questo tema in Italia non lavora nessuno, se ci si mette lei vede che farà strada. Purtroppo eravamo indietro di anni e anni a Norum. A suo tempo la vulgata generale, quella a cui tutti credevano, era più quella macroeconomico keynesiana legata alla scuola di Cambridge in Inghilterra, che faceva ancora l'occhiolino al marxismo o a derivati di questo. E al di là del bias ideologico, non si studiavano proprio i problemi del funzionamento del mercato. Quindi c'è senz'altro un problema grosso culturale, ma attenzione, di nuovo l'Accademia risente, credo, del fatto che in Italia non c'è una cultura liberale vera, non c'era nell'Accademia, non c'era nel mondo politico, e purtroppo l'Accademia non ha saputo essere leader rispetto al resto. E talora, me lo lasci dire professore, tanto è il mio compito di non allineato che prende gli schiaffi, magari si prendono anche voti da 16 anni promettendo di essere liberali, apertura del mercato e meno tasse, poi il problema è che qualcuno ci sia di indipendente dal centrodestra al governo per dimostrarvi, cari ascoltatori, che non è vero, B, che comunque è giusto, C, che qualcosa bisognerà fare. Poi dice il senatore Rossi, ce lo imporranno comunque le cose. Io me lo auguro, ma a volte sono scettico vedendo qual è l'andamento del mainstream in Europa, non solo in Italia. Allora, un'altra domanda di un ascoltatore e poi sentiamo Stagnaro e Scarpa come rispondono. Questa era un'altra domanda alle 100 pistole che viene sempre opposta ai liberalizzatori e a noi poveri mercatisti. Claudio da Prato, prego. Giannino, beh, io mi permetto di sollevare problema dalla parte rovesciata. È giusto, è culturalmente valido liberalizzare, però io domando a favore di chi? Perché attenzione, io le faccio l'esempio che ho fatto alla sua redazione, questo. Io sono in una tintoria in questo momento, che l'altra settimana è stata qui a Prato, è stata ceduta ai cinesi. È bene, sì. È male, punto interrogativo. Questo ce lo dirà il futuro, ce lo dirà il mercato. Però il punto di fondo che vorrei sollevarle è che noi possiamo parlare fino all'esaurimento dei tempi della liberalizzazione. Ma è chiaro che la liberalizzazione in parte è già avvenuta, ma in che maniera? Le cose veramente importanti, fruttifere di resa sono già state acquisite. Perché il capitale italiano non ha la capacità di stare in maniera sostanziale sul mercato globale liberalizzato. E quindi lei dice, se liberalizziamo veniamo colonizzati. All'80% sì, questo, ma vede che il grande dramma dell'Italia è questo. Perché? Ma dunque Claudio, benissimo, adesso vediamo, lei fa questa obiezione di fondo, veniamo colonizzati, arrivano i grandi gruppi nelle grandi reti infrastrutturali, arrivano i cinesi dal basso, se apriamo la concorrenza per i titoli proprietari, facciamo un vero mercato quindi della proprietà anche delle imprese del nostro paese, la colonizzazione. Allora, sentiamo prima con Stagnaro, lei deve rispondere a questo argomento in breve. Secondo, poi c'è la faccina della televisione, servi di Berlusconi. Quindi iniziamo con domande secche, sintetiche ma chiare. Allora, primo punto, la colonizzazione. È evidente che se veniamo, tra virgolette, colonizzati in alcuni settori, significa che gli italiani sanno produrre meno bene quei beni o servizi di quanto non facciano gli stranieri, ciononostante gli italiani dovranno specializzarsi a produrre altri beni o servizi, altrimenti il gioco non funziona, altrimenti il colonizzatore stesso ci perde e se ne va, nessuno vuole, come dire, mungere una mucca che non dà latte, anche se ci mettiamo nella prospettiva, come dire, più pessimistica. Quindi, come dire, la nella misura in cui, tra virgolette, la colonizzazione avviene, è semplicemente il frutto del fatto che imprese straniere sanno fare meglio certi mestieri e i consumatori in generale, l'economia del paese nel suo complesso, ci guadagneranno perché otterranno servizi e beni migliori a un prezzo inferiore. Ecco, mi scusi, per essere più chiari ancora, al consumatore italiano della bandierina nazionale del produttore non è giusto che interessi nulla. La risposta che davamo sempre a chi diceva compriamo automobili italiane, quando la Fiat prendeva i sussidi e consentiva l'apertura di stabilimenti per fare lavoro socialmente utile, non quella di oggi che non prende più i contributi e giustamente impone produttività in maniera comparata, io rispondevo sempre no, se voi comprate all'epoca macchine Fiat pensando di sostenere il settore, date un duplice segnale sbagliato al mercato: primo, premiate logiche inefficienti; secondo, scoraggiate il fatto che ci siano prezzi all'acquisto più vantaggiosi per tutti gli italiani. Quindi questo mi permetto di sottolineare che colonizzare, io non so se sia così, non credo che sia così, però questo è un argomento. Poi la televisione? Scusi, una postilla, senza contare che nessuno vieta agli italiani di comprare italiano, per cui se gli italiani vogliono spendere di più per un prodotto o un servizio meno buono purché italiano, possono farlo. Se non lo fanno è perché evidentemente le loro preferenze si indirizzano altrove. Sulla televisione è evidente che ci sono una serie di criticità in un pezzo particolare della televisione, che è la televisione analogica e gratuita. E su questo settore anche noi, ovviamente in questa trasmissione non siamo entrati nel dettaglio, tutte le nostre valutazioni sono composte da una griglia di indicatori e sottoindicatori, anche noi riscontriamo dei problemi di competizione in questo settore specifico, però la televisione è fatta anche di tante altre cose, a partire da una concorrenza infrastrutturale e tecnologica che si sta affermando, e si sta affermando in Italia con una velocità forse più lenta, anzi sicuramente più lenta rispetto al paese che abbiamo preso come benchmark, cioè la Spagna, ma non terribilmente più lenta. Come dire, io sono d'accordo che ci sono delle criticità, ma non dobbiamo pensare che la televisione si esaurisca su quella cosa di cui stiamo discutendo da 20 anni, forse c'è anche dell'altro. Per il professor Scarpa, subito dopo l'interruzione che adesso ci tocca per un minuto sulle informazioni stradali, una osservazione di un ascoltatore. Sì, però il segmento più elevato della concorrenza nel nostro paese, cioè la telefonia mobile, alla fine cosa ha portato? A saturare tanto di presenze e a concentrare tanto per ottenere i migliori margini le società telefoniche su questo settore, che in conclusione noi paghiamo poi il mancato avanzamento dell'infrastruttura tecnologica, cioè la banda larga, i servizi avanzati attraverso rete fibra e non a rame come quelli di Telecom, lo paghiamo come un arretramento terribile che rischia di tagliarci fuori rispetto allo sviluppo dei servizi avanzati e anche abbassando la produttività per tutte le medie e piccole imprese italiane che devono rimanere ovviamente sul rame di Telecom. Allora, eccoci tornati in studio. Professor Scarpa, c'è chi sostiene che per i grandi investimenti, quelli necessari ad aumentare la produttività, soprattutto i balzi di produttività delle grandi reti infrastrutturali, si tratti dei concessionari autostradali, perché questo è uno dei punti ricorrenti della polemica rispetto alle regole di privatizzazione che sono avvenute nel nostro paese, oppure del segmento della telefonia fissa rispetto alla rete rame, di cui Telecom ha tutto l'interesse a protrarre la rendita da monopolio prima di passare ovviamente a quella in fibra, molti dei nostri ascoltatori ci fanno notare con la vostra concorrenza i grandi investimenti qua non vengono, perché tutti si concentrano a sfruttare fino al limite il margine che si può fare laddove c'è il più del consumo sulle infrastrutture senza farle andare avanti. Lei che dice? Non sono molto d'accordo sul fatto che ci siano troppo pochi investimenti nelle autostrade. Tutto sommato le autostrade sono quello che sono, vengono mantenute in modo ragionevole, almeno la principale mi sembra sia in buono stato, altre sono in condizioni tragiche, ma non credo che sia un problema di liberalizzazione, anzi quello è il settore forse meno liberalizzato di tutti, se non ricordo male anche dalla classifica che ha ricordato dal Bruno Leoni, lì non abbiamo un problema di eccessiva liberalizzazione che penalizza questi investimenti. Per quanto riguarda riguarda la telefonia, anche lì abbiamo un settore che in realtà è poco liberalizzato, però il problema degli investimenti è comunque un problema separato, soprattutto quando parliamo di investimenti sulla rete fissa. La posizione dominante di Telecom Italia resta, però Telecom Italia comunque non ha gli incentivi per sviluppare grandi reti a valore aggiunto. Lì c'è un problema di regole sballate, di regole che continuano a cambiare nel tempo, e di uno Stato che purtroppo si è molto occupato nel tempo di chi era l'azionista di controllo di Telecom Italia, se ricordate, dai capitani coraggiosi di Colaninno, prima c'era stato il tentativo di costruire un nucleo duro di azionisti, nucleo che era così duro che si è squagliato al sole appena possibile, adesso poi c'era stato il tentativo di AT&T di entrare in Telecom Italia, assolutamente no, perché sennò non fanno gli investimenti, e infatti gli investimenti continuano a non farli nonostante gli azionisti di controllo siano italiani, nonostante il mercato sia poco liberalizzato. Il problema è che ci occupiamo sempre delle cose sbagliate, cioè degli assetti proprietari, invece che di dare delle regole stabili e credibili alle imprese. Quando diamo quelle, poi le imprese investono. Ora, una batteria di altre critiche viene da coloro che dicono: beh, insomma, avete voluto privatizzare e gli effetti non li abbiamo visti. E qui c'è un'altra questione di fondo, perché la liberalizzazione viene spesso confusa con la privatizzazione. In Italia il proprietario pubblico ha dato nell'immediato dopoguerra ancora buona prova di sé, come nell'accumulazione primaria industriale complessivamente. Poi dopo, per 25-30 anni, ha iniziato a gestire per senso e clientela politica, accumulando deficit e cose che scassavano l'Italia. Quindi privatizzare è la risposta a un proprietario inefficiente. L'apertura del mercato è una cosa distinta. Però, insomma, vedo che molte osservazioni vengono su questo. Sentiamo ancora un paio di telefonate rapidissime. Francesco da Napoli, lei che pensa? Sì, io onestamente, buongiorno a tutti, volevo intervenire a proposito del fatto delle regole certe anche per i soggetti ai quali liberalizziamo. In termini, parliamo ad esempio per l'energia elettrica piuttosto che le telecomunicazioni, o anche la gestione dell'handling aeroportuale. Cioè, negli ultimi anni abbiamo assistito con le liberalizzazioni al fatto che non ci sia un unico responsabile che controlli l'efficienza del sistema. Quindi nelle situazioni di crisi, tipo i guasti, i disservizi, come si è visto a volte negli aeroporti, oggi negli aeroporti sugli schermi non c'è più un unico gestore, per esempio per quanto riguarda la consegna dei bagagli, ce ne sono 5 o 6, perché a quel punto si va a ricorrere a quello specifico gestore del tuo bagaglio che non si trova più. Ma noi possiamo mai inseguire un sistema così, diciamo, normato approssimativamente? Non c'è più, cioè, per i servizi specifici. Ma lei dice sono le autorità che non sono abbastanza, sì, che non funzionano efficaci. Assolutamente, non ci sono, esatto, norme. Cioè, se si liberalizza ci vogliono paletti che sono ben visibili e chiari, perché il servizio deve essere garantito. Se si chiama un gestore di... Grazie Francesco. Sentiamo poi Virgilio da Ravenna. Che pensa Virgilio? Salve, io volevo stare più sul fatto delle concorrenze più che delle, sì, liberalizzazioni. Sì. Secondo me, perché debbono esistere due gradi di concorrenza in Italia, la leale e la sleale? Perché, e la sleale, prima, secondo lei chi la fa? Ah, la sleale, le faccio subito due esempi. Perché un imprenditore può permettersi a chi gli chiede un servizio di potergli dire: ti fornisco un tot in nero, diciamo la terra a terra, e non osserva magari le regole del personale in regola, non osserva, cioè, i pagamenti li prende, per dire, all'estero, invece quello che è onesto, che ce ne sono per fortuna, deve sempre sottostare quasi a un'imposizione di una concorrenza sleale, che è peggio forse di quella cinese. Quindi mi, perché, pare di capire, gli evasori sono la concorrenza sleale. Ma sì, ma anche la politica incentiva questo, perché se non fai delle regole certe, non voglio uno stato di polizia, intendiamoci, però sì, di sicuro ci sono due che ci rimettono: le banche, cioè i cittadini e lo Stato, e tra virgolette le banche su questi flussi di denaro anomali non ci perdono di sicuro. Grazie, va bene, va bene. Il tema di Virgilio però è più ampio, il problema dell'evasione fiscale è il problema poi della bassa compliance spontanea, cioè dell'adesione spontanea di un paese. Però attenzione Virgilio, la letteratura economica storica accumulata nei diversi paesi che hanno problemi maggiori, come l'Italia, di adesione spontanea bassa alle regole dell'ordinamento, di cui viene l'evasione fiscale, si spiegano anche, se non soprattutto, tutto, perché abbiamo troppe regole, troppo pervasive, troppo aliquote marginali, quindi questo è il cane che si morde la coda, perché chi la pensa come me non darà mai ragione a chi dice è colpa del DNA degli italiani che sono tutti evasori, fanno concorrenza sleale. No, la colpa storica è di uno Stato che ha chiesto altissime aliquote marginali, concentrate nel tempo, in meno di 20 anni, 20 punti di pressione fiscale in più, che poi vi illude perché dice che la pressione fiscale è del 43%, ma ci mette nel denominatore anche l'economia in nero 17%, per cui il 52%, e in cambio cosa ci dà? Lo sappiamo, alta inefficienza dei servizi, eccetera, eccetera. Quindi, detto questo, invece, considerazione finale da parte di Stagnaro, che cosa fa pensar bene rispetto, se volessimo isolare i punti invece più positivi di questa ultima edizione rispetto a quelle precedenti, cosa potremmo dire? Quello che fa pensar bene è che quei settori che già avevano un grado sufficiente, diciamo così, di liberalizzazione, penso in particolare al mercato elettrico, ma non solo, e che sono stati dotati di autorità indipendenti e che hanno avuto una ragionevole stabilità delle norme, hanno continuato a migliorare, per così dire, per inerzia positiva, a testimonianza del fatto che se si danno poche buone regole e istituzioni credibili, gli attori del mercato prendono confidenza col contesto liberalizzato e ne approfittano di più. Quello che invece fa pensare male è che altri settori, penso in particolare al trasporto ferroviario e trasporto aereo, sono stati, che già avevano un grado abbastanza basso di liberalizzazione, sono stati oggetto di interventi precisi del liberalizzatore che hanno sortito l'effetto opposto, cioè quello di restringere la concorrenza. E quindi dobbiamo, come dire, avere grande fiducia nelle capacità delle liberalizzazioni, ma avere grande scetticismo nell'altruismo interessato di chi sta al governo, a prescindere dalla parte politica di cui è espressione. Professor Scarpa, ma ignoro adesso la sua posizione familiare e le garantisco una domanda assolutamente che non vuole addentrarsi su terreni scivolosi. Non è per sapere se ha parenti in cattedra, in altre parole, ma avesse figli, come sicuramente avrà, se dovesse indirizzarli a insegnare concorrenza, economia della concorrenza, gli direbbe, come ai tempi fece il suo di maestro, fallo in Italia oppure è meglio che lo fai all'estero, visto i risultati comparati del Bruno Leoni? Io ho un figlio di 2 mesi, quindi è ancora un po' presto per quello, però purtroppo gli direi guarda il mondo, guarda all'estero, per due ragioni. In primo luogo perché in Italia purtroppo di cultura della concorrenza ce n'è poca e temo stia arretrando. Non sono molto ottimista riguardo, vedo quello che sta facendo l'autorità antitrust in questi ultimi anni e sta facendo sempre meno antitrust e sempre più protezione del consumatore in modo molto paternalistico, sì, che è un'altra roba. E poi abbiamo sempre comunque un sistema formativo in Italia che, pur da persona che ci lavora dentro e cerca di fare il meglio che può dall'interno del sistema, però mostra ancora la coda rispetto ai grandi parametri internazionali e temo che recuperare questo deficit. Sì, è una questione di grande lena. Bene, su queste due note, una un po' più ottimista di Carlo Stagnaro, ripeto, indice della liberalizzazione 2010 sul sito dell'Istituto Bruno Leoni per procurarvene una copia, e del professor Carlo Scarpa, che salutiamo insieme a Nicola Rossi, un pochino più pessimisti. Io vi dico invece che finché avrò fiato in gola in questo paese senza espatriare, tenterò di battermi, perché più concorrenza disallineata dalla politica, senza servaggi e a maggior ragione critica verso chi vi ha chiesto il voto dicendo più concorrenza meno tasse e fa il contrario, beh, noi qua siamo per questo e quindi per questo vi rompiamo le scatole. Grazie regia Valerio Rocchetti, a Carmelo Lauricella, grazie in redazione Antonella Migliaccio, la linea Generale Radio, appuntamento a domani.